Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La sicurezza non è garantita dalla presenza dei due binari, è la capacità che è garantita dalla presenza dei due binari. Anche binari unici sono molto sicuri quando sono applicate tecnologie avanzate. Queste sono un po' le conclusioni, diciamo la sottolineatura, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro dei trasporti Delrio oggi, che ha riferito sul disastro tra i treni che è successo in Puglia ieri. E a questo proposito sapete che si era aperta la polemica sul binario unico e pare insomma che avanzi la teoria che in realtà, anzi diciamo il dato di fatto, che il problema non è stato e non è il binario unico ma sono i sistemi di controllo. È chiaro che se su un binario unico, pare che ce ne siano molti in Italia e anche all'estero, ci si danno i sistemi di controllo consistono nel parlarsi al telefono, nel mandare un fax. È chiaro che diciamo questi incidenti, queste tragedie possono effettivamente capitare. Ci sono già degli indagati, una notizia che è uscita poco fa dalla Procura di Trani, ancora non sono stati rivelati i nomi, sono iscritti nel registro degli indagati, che sapete che è una misura di garanzia, insomma, per avvisare, guardate che stiamo facendo delle indagini nei vostri confronti. Pare che siano dei dipendenti di Ferrotranviaria, la società che gestisce appunto questo tratto dove c'è stato l'incidente. Su questo potete fare i vostri commenti questa sera, uno dei temi, un tema principale naturalmente di stasera, Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero 349-238-6666 su questo tema e su altri temi importanti, perché parleremo anche della morte di Bernardo Provenzano, è stato il boss dei boss di Corleone dopo 43 anni di latitanza, pensate, era stato arrestato poi in un covo vicino a casa sua dove era sempre rimasto 10 anni fa e oggi per l'appunto è morto, era malato da tempo. E poi c'è la nuova premier in Gran Bretagna che è Theresa May. E già si sta componendo la squadra. Boris Johnson, sindaco di Londra, che era stato uno dei principali sostenitori della Brexit, è stato nominato ministro degli esteri. E poi ci sono tanti altri temi, come la Corte europea che si spacca sul velo islamico al lavoro, è giusto vietarlo o meno? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per tutte le vostre riflessioni sui tanti temi che vi racconterò. Prima di tutto però vediamo com'è andata complessivamente la giornata. Il disastro ferroviario in Puglia, sono 23 i morti accertati, sabato ci saranno probabilmente i funerali, domani il presidente Mattarella sarà a Bari per rendere omaggio alle vittime e ci sono i primi nomi nel registro degli indagati di Trani, si tratterebbe di dipendenti di Ferrotranviaria. Gran Bretagna, Theresa May è la nuova premier, riceve dalla regina Elisabetta l'incarico di formare il nuovo governo, a lei il delicato compito di portare il paese fuori dall'Unione Europea. È morto Bernardo Provenzano, il capo dei capi di Cosa Nostra, se n'è andato a 83 anni, era in carcere da 10 anni dopo 43 anni di latitanza. Immigrazione, l'Unione Europea propone 10.000 euro per ogni reinsediamento di migranti e un sistema unico di asilo. Stati Uniti, secondo uno degli ultimi sondaggi, si restringe a 3 punti il margine di vantaggio a livello nazionale della candidata democratica della Casa Bianca Hillary Clinton sul rivale repubblicano Donald Trump. Le Olimpiadi di Rio, parla il marciatore altoatesino Schwarzer, non mi sono dopato, qualcuno ha manipolato la provetta, voglio giustizia. Partiamo quindi dal terribile incidente ferroviario di ieri in Puglia, il bilancio definitivo come vi dicevo di 23 morti e nessun disperso, ci sono inoltre 52 feriti, 24 dei quali ricoverati ed 8 in prognosi riservata. Sabato probabilmente, ancora non è sicura la notizia, ci saranno i funerali e per quanto riguarda l'inchiesta ci sarebbero già i nomi di alcune persone, probabilmente appunto dipendenti di Ferrotranviaria, che sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Trani per i reati di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Lo si apprende da fonti inquirenti che non hanno però voluto dire nulla sul numero delle persone indagate né sul ruolo delle stesse che avrebbero avuto in questa vicenda. In occasione delle autopsie, gli indagati delle vittime, agli indagati sarà notificata l'informazione di garanzia. La Procura di Trani ha sottoposto a sequestro intanto l'area dell'incidente e ritiene di aver accertato che il treno partito da Andria, che dopo circa 10 minuti si è scontrato con quello proveniente da Corato, non sarebbe dovuto partire e a provocare lo scontro che ha causato la morte appunto di 23 persone sarebbe stato un errore umano, ma sarà necessario capire da cosa sia stato determinato questo errore. Oggi il ministro Delrio ha riferito in Parlamento sottolineando che il sistema di avviso telefonico, come avete sentito all'inizio, è tra i più a rischio e promette lo stanziamento di circa 2 miliardi per le reti regionali. L'Italia non ha mai fatto la cura del ferro, ma la tendenza è stata invertita, ha aggiunto Delrio. 2.700 chilometri di rete ferroviaria a binario unico con 5 milioni di pendolari ogni giorno. Un sistema di sicurezza non adeguato ai tempi. Il quadro che traccia il ministro dei trasporti Graziano Del Rio all'indomani della tragedia pugliese non è esaltante. Il sistema di segnalamento con consenso telefonico, pur essendo sicuro, è certamente un sistema tra i meno evoluti rispetto alle tecnologie disponibili per la regolazione della circolazione ferroviaria. Infatti il sistema si affida interamente all'uomo, nella fattispecie, all'operatività dei capi stazione, come sopra descritto. Del Rio ammette che in questo paese non è mai stata fatta la cura del ferro, ma il governo ha invertito la tendenza e ha destinato diversi miliardi al trasporto ferroviario regionale. Promette poi lo stanziamento di altri 1,8 miliardi per le reti locali. A giorni sarà chiusa la gara per il raddoppio Andria-Corato, ma il Movimento 5 Stelle protesta nell'aula di Montecitorio. Giuseppe D'Ambrosio. Non siete a fianco ai cittadini, prendetela una volta quel treno, capite qual è la vita all'interno dei treni pendolari, ma non solo in Puglia, perché potremmo fare uno scenario devastante della Puglia, ma di tante altre regioni italiane. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco torneremo a parlarne anche con il vice ministro dei trasporti Nencini, qui effetto notte. Gran Bretagna adesso con Theresa May, che è la nuova premier, 60 anni, ministra dell'interno negli ultimi 6 mesi, neo-leader del partito conservatore, è stata invitata dalla regina a formare il nuovo governo britannico. Diventa così la nuova premier del Regno Unito, succedendo a David Cameron. È la seconda donna nella storia del paese ad assumere la guida dell'esecutivo 26 anni dopo Margaret Thatcher, anche lei esponente dei Tories. A lei il delicato compito, Theresa May, di portare il paese fuori dall'Unione Europea, e poi di questo parleremo in modo più approfondito qui a effetto notte. Parliamo naturalmente anche della morte di Bernardo Provenzano, il capo di capi di Cosa Nostra. Se n'è andato a 83 anni, era in carcere da 10 anni dopo 43 anni di latitanza. La sua storia l'affronteremo tra poco con chi ha scritto molto su di lui. Siamo alla politica italiana, è fissato entro domani alle 19 il termine per raggiungere il numero di firme sufficienti per lo spacchettamento del referendum costituzionale. La proposta nata dai radicali permetterebbe ai cittadini di esprimersi sui vari aspetti della riforma per parti separate, permettendo anche una maggiore informazione. Paola Binetti di Area Popolare è anche lei tra i parlamentari che hanno sposato l'iniziativa e le abbiamo chiesto perché. Onorevole Paola Binetti, la sentiamo al microfono di Enza Loddo. Per sottrarlo a questa specie di derby che si è creato tra il sì e il no, tra i fautori del governo Renzi, gli oppositori del governo Renzi, tra maggioranza e opposizione, che ha spogliato completamente il referendum da una riflessione seria e rigorosa sui contenuti stessi della riforma costituzionale. Forse per i fautori del no e per chi vuole mandare a casa Renzi, entrare nel dettaglio non ha molto significato. Credo che ovviamente i fautori del no non intendono prendere atto del fatto che in questa riforma ci possono essere delle cose buone. Sicuramente accanto a queste cose buone ci sono cose che non sono espresse in modo chiaro. Un esempio? Nell'opinione pubblica si è fatta passare l'idea che viene abolito il Senato e che quindi si abbattono radicalmente i costi della politica e si rende molto più veloce il processo legislativo. Sono cose false, non dà conto né del fatto che il Senato non è abolito, né dà conto del fatto che il Senato conserva delle prerogative che sono molto importanti per intervenire in tutta quella che è la dinamica parlamentare. I dati economici adesso. L'Istat conferma la stima preliminare di giugno sull'inflazione, che è ancora negativa. I prezzi al consumo scendono su base annua per il quinto mese consecutivo e a giugno mostrano un calo dello 0,4% in accelerazione dal meno 0,3% di maggio. Rispetto al mese precedente il quadro resta però fondamentalmente stabile. A motivare l'andamento deflattivo sempre la componente energetica, ci spiega Federico Polidoro dell'Istat. I beni energetici registrano anche a giugno una flessione su base annua del 7,5%, mentre tutte le altre tipologie di prodotto registrano variazioni positive. Al netto quindi dei beni energetici, l'inflazione è al rialzo, più 0,4%. In accelerazione soprattutto i prezzi di tabacchi e bevande alcoliche, anche se su base mensile i rincari maggiori arrivano dai trasporti a causa del rimbalzo dei carburanti. Tornano a crescere i beni alimentari per la cura della casa e della persona. Complessivamente l'inflazione acquisita per il 2016 è pari a meno 0,2%. Se da luglio i valori rimanessero stabili, l'anno chiuderà dunque con una variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Immigrazione adesso con l'Unione Europea che propone 10.000 euro per ogni reinsediamento di migranti. Per ogni migrante arrivato in base al sistema dei reinsediamenti, il paese di accoglienza riceverà dall'Unione Europea 10.000 euro. Questa è la proposta per il momento della Commissione Europea, che prevede anche un sistema di reinsediamenti su base annuale. Saranno gli stati a decidere quanti rifugiati verranno legalmente accolti e i paesi di provenienza. L'Unione Europea poi tra l'altro propone anche un nuovo sistema unico di asilo per evitare che i migranti possano scegliere condizioni migliori, cioè se viene assegnato quel paese, in quel paese devono poi risiedere. Nella notte, tra l'altro, c'è stato un altro gommone che ha affondato al largo dell'isola di Lesbo, in Grecia, trovati i quattro corpi delle persone, tra cui due bambini. All'estero, circa 42.000 persone sono state sfollate in Sud Sudan durante i violenti scontri iniziati la settimana scorsa, lo hanno reso noto le Nazioni Unite, precisando che 7.000 persone hanno cercato rifugio nelle strutture dell'organizzazione internazionale. Le stime precedenti parlavano di 36.000 sfollati. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha chiesto che il Consiglio di sicurezza imponga un immediato embargo sulle armi in Sud Sudan e adotti ulteriori sanzioni mirate. E negli Stati Uniti si restringe a 3 punti il margine di vantaggio a livello nazionale della candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, sul rivale Donald Trump. Secondo un sondaggio McCarthy Marist, l'ex segretaria di Stato guida con 42% contro il 39% di Trump. In marzo la differenza invece era di 9 punti. E c'è un dibattito sul velo in Unione Europea. La Corte Europea si spacca sul velo islamico al lavoro. Vietare o non vietare il velo islamico alle donne che lavorano in un'azienda privata non è solo un dilemma etico per gli amministratori, ma è anche un tema giuridicamente controverso per la stessa Corte di Giustizia Europea, tanto che i suoi avvocati generali, i cui pareri vengono normalmente ripresi dalle sentenze della Corte, stavolta sul tema sono divisi e hanno emesso conclusioni opposte. Sta quindi ora ai giudici della Corte di Lussemburgo fare chiarezza sulla questione e fissare la linea. Musica. Parliamo adesso di una mostra straordinaria, una vera biografia fatta di oggetti e immagini. Arriva in Italia David Bowie Is, la mostra che apre domani, viene allestita per la prima volta dopo la morte dell'artista avvenuta il 10 gennaio scorso. A portarla al Museo d'Arte Contemporanea di Bologna, il promoter Fran Tommasi, lo ha incontrato Marta Cagnola. È un percorso in cui anche chi non è un fan capisce alcuni aspetti e queste molte sfaccettature che l'artista ha, che non è solamente musica, ma come hai visto anche arte, pittura, scrittura, testi, eccetera. Quindi, ed è secondo me molto emozionante, soprattutto l'ultima sala in cui vedi sia i mega concerti che ha fatto, con i costumi che indossava durante i concerti, sono anche esposti nei manichini che tu vedi. Quindi è estremamente emozionante ed è come un po' un concerto dal vivo, se vuoi, quella sala lì in particolare. Quindi mi pare un connubio estremamente interessante avere una mostra e una musica insieme. E per chiudere lo sport con la vicenda di Schwarzer, voglio andare alle Olimpiadi perché sono pronto e vincerò, non mi sono dopato. Così Alex Schwarzer, che a Vipiteno ha parlato con la stampa dopo che ieri il Tribunale Nazionale Antidoping ha annunciato di non poter annullare la sua sospensione, ma che la decisione deve arrivare da Losanna. O qualcuno mi ha dato di nascosto la sostanza o la provetta è stata manipolata, ha detto Schwarzer, che dichiara che i controlli doping sono effettuati in maniera poco equilibrata. L'atleta ha mille obblighi. Ha mille obblighi, ma chi lo controlla ha pochi obblighi, ok? Perché io in questi giorni ho pensato tantissimo come e dove poteva succedere questa cosa su di me, ok? Allora, perché io sono da solo e loro sono in due, perché il controllo è urina e sangue. Allora questo non va bene, perché io lì non mi posso difendere. Era molto arrabbiato, abbiamo sentito più volte qui il suo allenatore Donati, che continua a dire che qualcuno ha manipolato queste provette. Per il ciclismo oggi vittoria di tappa per Peter Sagan al Tour de France. Bene, per il momento con il riassunto della giornata abbiamo finito, fra poco comincerò ad approfondire gli argomenti con gli ospiti. Intanto i vostri messaggi al 349-238-6666, lì sms e whatsapp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sui vari temi di questa sera, per esempio Enea sul il dibattito della, alla Corte Europea sul velo, vietarlo o no, dice: vuoi vedere che quelli della Corte di Lussemburgo sono così suonati che permetteranno l'uso del velo anche alle donne che lavorano sulle macchine utensili? Salvini sarebbe pienamente d'accordo. Ilaria scrive: ma anche il velo devono normare, non capisco che fastidio possa dare a patto che lasci il volto scoperto. Comunque è un dibattito annoso, soprattutto in Francia. Poi invece sul disastro ferroviario Massimo scrive: nessuno parla del contratto col concessionario che non ha l'obbligo di sistemi di sicurezza che invece hanno le FS, le Ferrovie dello Stato. Molto probabilmente bisognerà indennizzarli per i treni distrutti, così ipotizza Massimo. Mentre Gianluca da Terni dice: l'assenza di un obbligo di legge non esime il gestore di un impianto dal non adottare la tecnologia che garantisce più sicurezza. Le linee guida UNI lo dicono chiaramente, questo significa che nessuno può quindi obbligare il gestore all'installazione dei sistemi di sicurezza più all'avanguardia se la legge non lo prescrive, ma in caso di disastro il magistrato ha il dovere di chiedere conto al gestore del motivo per cui non siano stati installati i sistemi tecnologici che allo stato dell'arte attuale garantiscono maggiore sicurezza nel pubblico esercizio. Questo è il messaggio molto circostanziato di Gianluca da Terni. Continuate al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, ero immersa nelle notizie ma anche nelle vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dove leggo per esempio questo WhatsApp: ditelo che dal 2013 che il Movimento 5 Stelle, in particolare D'Ambrosio, che lo denuncia in particolare modo quelle tratte, lui è proprio di Andria, si è sentito infatti in un servizio che abbiamo mandato nel riassunto della giornata. Oggi c'è stato questo attacco del Movimento 5 Stelle al ministro dei trasporti Delrio durante il suo intervento in Parlamento. E poi altri messaggi ancora sui vari temi, questo ma anche quello sul velo. Alberto dice: assolutamente da vietare il velo. Questo per il dibattito che diciamo ha spaccato la Corte Europea dei diritti. Dice: da vietare per motivi di sicurezza, di certo non per islamofobia. Poi se anche così non fosse, qui non usiamo simboli religiosi, e se abiti in Italia devi seguire le regole italiane come fanno in Iran, che obbligano tutte le donne a indossare il velo. Allora in Italia, siccome non si usa, non lo usano manco le islamiche. Questa è la... il ragionamento di Alberto. Vi ricordo, mentre voi continuate con le vostre riflessioni, prima di passare al primo ospite e ai vari approfondimenti, le notizie più importanti del giorno. Vittime sul binario della morte sono 23, polemiche sulla sicurezza, sabato i funerali, ancora però non è certa la notizia, sulle cause indaga un pool di 5 magistrati e ci sono già degli indagati. È morto Bernardo Provenzano, ultimo padrino di Cosa Nostra, era malato, è stata chiesta l'autopsia, vietati i funerali in chiesa. A Londra il May Day, come si dice scherzosamente, con un gioco di parole, cioè il giorno di Theresa May, la Premier si insedia a Downing Street e Boris Johnson è già ministro degli esteri. Renzi supera il test Senato, ottiene la maggioranza senza ala. Bersani dice: nessuno vuole che Matteo lasci, il governo non rischia. Oggi ci sono state delle votazioni sul disegno di legge relativo agli enti locali, che adesso deve passare però alla Camera. Questo è successo al Senato. E poi tre carabinieri condannati per l'omicidio di Magherini. L'uomo è morto durante l'arresto in strada a Firenze, e questa è la sentenza quindi che è arrivata. E poi l'atto finale di Schwarzer, il marciatore altoatesino, che presenta il suo dossier anti-stop, è stato sospeso per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio, che sono alla fine tra meno di un mese. La difesa chiese le prove del DNA sulle urine, c'è un esposto, ha fatto il suo avvocato, per frode sportiva. E quindi torniamo a parlare del disastro ferroviario avvenuto ieri mattina in Puglia, uno scontro frontale tra questi due treni delle Ferrovie del Nord Barese che fanno capo alla società privata che è Ferrotramviaria, avvenuto sul tratto a binario unico tra Corato e Andria. C'erano a bordo centinaia di pendolari che erano diretti a Bari e il bilancio, che dovrebbe essere definitivo a questo punto, è di 23 morti, tutti italiani e nessun disperso. Secondo quanto si apprende, il lavoro dei vigili del fuoco dovrebbe essere infinito, che erano all'opera da ieri mattina. Tutti i vagoni sono stati rimossi, nessun altro corpo quindi è stato rinvenuto durante le ultime ricerche. Ci sono poi anche 54 feriti e a Bari è finito oggi lo straziante riconoscimento delle vittime da parte dei parenti, e sabato ci dovrebbero essere i funerali. La procura ha diffuso i nomi di tutte le vittime e ne emergono man mano le storie almeno di alcune di queste, dalla ragazza che si doveva sposare a breve a Maria, 49enne, che aveva preso il treno all'ultimo minuto, al ragazzo che stava andando a fare un esame. Questo perché inevitabilmente avviene un po' in queste tragedie, no? Che emergano le storie di persone il cui destino a un certo punto fatalmente si intreccia in un esito tragico comune. Quindi non solo numeri ma persone con le loro storie. Gianpaolo Balsamo, ben ritrovato. Buonasera. Giornalista della Gazzetta, Roberta, del Mezzogiorno. Buonasera ai radioascoltatori. Sì, è il the day after oggi. Insomma, oggi è stata una giornata molto dolorosa, anche piena di tensione. Ecco, noi abbiamo seguito come Gazzetta del Mezzogiorno anche questa fase del riconoscimento dei cadaveri che è avvenuta all'Istituto di Medicina Legale di Bari. Storie tragiche, dicevi tu, giustamente, quelle delle vittime si intrecciano poi le storie dei sopravvissuti. Mi ha colpito, ecco, la storia di una signora che riportiamo sempre sulle pagine del nostro giornale, che in mezzo a tanta confusione, in mezzo anche allo shock, è riuscita ad estrarre il marito vivo sotto le macerie. Lei ci ha detto: c'erano brandelli di corpi ovunque. Io sono andata, sono uscita da un finestrino, sono scalza, sono andata sotto le macerie, ho trovato le mani nude di mio marito, l'ho tirato, sono riuscito a salvarlo, mai dimenticherò questo momento. Quindi ho voluto ricordare questa storia perché la dice lunga, ecco, su quel clima di tensione ma anche quasi di terrore che si è vissuto in quei momenti. E poi ci sono le storie. Facevamo cenno anche ieri, insomma, quella del poliziotto di Fulvio Schinza, di questo funzionario della polizia, era appena rientrato dalle ferie, il suo corpo è stato riconosciuto, guarda caso, proprio da un collega, da un poliziotto che era accorso per dare una mano ai soccorritori. C'è la storia poi del contadino, il contadino Giuseppe Acquaviva, 51 anni. Diciamo che lui è una storia, la tragedia nella tragedia, perché ecco, non è morto perché si trovava all'interno dei due maledetti convogli, ma lui è morto perché si trovava a lavorare su un ulivo, una delle piante tipiche del nostro territorio. Perché questo incidente, in quel tratto il binario era proprio in mezzo alla campagna, no? Tipica degli ulivi della Puglia. Anzi, la cosa che mi ha colpito è tutt'oggi, noi siamo stati sul posto, c'era un silenzio davvero innaturale, solamente il frinire delle cicale, quel frinire intenso che è quasi assordante. Quello era l'unico rumore quest'oggi, poi un silenzio assordante, non c'era nessuna un'anima viva. Gianpaolo, fra l'altro oggi invece tra i feriti, per fortuna lui in buone condizioni, questo bambino Samuele di 7 anni, no? Che era compiuto oggi è compiuto compleanno. In ospedale, che era tra le braccia della nonna che è morta, lui invece per fortuna si è salvato. E lui non sa niente ancora. E non sa niente. Senti Gianpaolo, per quanto riguarda l'inchiesta, la procura di Trani procede per omicidio colposo plurimo e pare, un'agenzia di poco fa, che ci siano già degli indagati, anche se per il momento non si fanno i nomi, ma sembra che possano essere dei dipendenti della società. Sì, gli indagati si vociferava già ieri, sono comunque di prassi, dovrebbero essere i due capi stazione. Quello della stazione di Corato e quello della stazione di Andria. Ovviamente dico di prassi perché dovrebbero essere loro i responsabili, coloro che praticamente hanno dato il via libera al treno in partenza e hanno poi dato il via libera all'ingresso del treno. Tu dicevi bene, c'è stato costituito un pool di 5 magistrati, ma c'è anche un pool di investigatori che vengono coordinati dal comandante della Polfer. Infatti sono stati sequestrati un po' materiale vario, materiale cartaceo, materiale video e anche le comunicazioni audio che nelle scatole nere, no? Quindi bisognerà capire, sì, insomma, adesso... anche proprio le telefonate, perché su quel tratto si è tanto discusso, avveniva il blocco telefonico, quindi gli spacci, i dispacci tra le due stazioni avveniva telefonicamente. Sono stati sequestrati, infatti, anche queste registrazioni. Bene. Gianpaolo Balsamo, io ti ringrazio e magari ci aggiorniamo anche nei prossimi giorni. Buon lavoro della Gazzetta del Mezzogiorno. Con piacere, buon lavoro a voi. Ciao Gianpaolo. Ora, la Procura di Trani, abbiamo detto, indaga anche sulla adeguatezza del sistema di controllo, questo blocco telefonico, cioè il fatto di comunicarsi tra i capi stazione con il telefono, e anche indaga sui tempi di raddoppio della tratta, di questa tratta a binario unico, che avrebbe dovuto concludersi il raddoppio nel 2015, e anche di ammodernamento del sistema di controllo del traffico, informazioni che potranno arrivare, appunto, come si diceva, dal recupero delle scatole nere. Saluto il viceministro Riccardo Nencini, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti. Buonasera, grazie della disponibilità. Nencini. Buonasera. Grazie, buonasera. Quindi si diceva, anche lo stesso ministro Del Rio oggi ha detto, che non è tanto il problema del binario unico quanto questo sistema piuttosto arretrato del blocco telefonico che regola la circolazione ferroviaria, no? In quel tratto unico, binario unico. È esattamente così. Il binario unico di per sé non è indice di tragedia annunciata. Noi abbiamo molti tratti di binario unico su circa 20-21 mila chilometri governati dalle Ferrovie dello Stato, 9 mila sono a binario unico, 2600 chilometri sono nelle mani di società private, molto spesso private, però non c'è una differenza in termini di sicurezza tra il doppio binario e il binario unico. Il problema sono i controlli per la sicurezza che si esercitano su quel tipo di rete. Noi abbiamo 600 chilometri ancora di ferrovia, di binari, che vengono governati con il blocco telefonico. Ci sono dei tratti, tra virgolette, leggeri perché hanno un passaggio di veicoli ferroviari molto basso nel corso della giornata, ed altri tratti come quello invece dove la percorrenza è una percorrenza abbastanza alta. Viceministro Nencini, c'è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie che promette delle misure immediate di contenimento del rischio, dice, appena estenderà le sue competenze anche alle cosiddette linee ex concesse, come è questa, per esempio, appunto, dove è avvenuto il disastro ferroviario. Poi il ministro Del Rio ha promesso uno stanziamento di circa 2 miliardi per le reti regionali. Però a che punto sta la sicurezza? Qual è lo stato dell'arte dei controlli in Italia? Perché pare che ci sia tutto, insomma, una frammentazione di società, almeno 20 operatori diversi, leggevo, dalla potente Trenord in Lombardia alle Ferrovie del Gargano, piccole 7 uffici interregionali che controllano la sicurezza dei treni. Non c'è troppa frammentazione, quindi non dovrebbe essere tutto sotto un'unica agenzia, perché è vero che magari sono tratte private di società che fanno capo a società private, però sono sul territorio italiano e forse il controllo dovrebbe essere tutto in mano all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza. Il grosso delle ferrovie italiane è pubblico, noi siamo tra virgolette controllori di Rete Ferrovie Italia, poi ci sono dei tratti abbastanza numerosi governati dal privato, dove quindi c'è stato un accesso al libero mercato e una gestione appunto affidata a società in larga parte anche private. Mi permetto di correggerla su un punto. Sì. Il 1,8 miliardi di euro per le ferrovie regionali, per il ferro regionale, è già stato previsto. Quindi l'impegno che ricordava oggi il ministro Del Rio è una cosa che è già avvenuta da qualche settimana. Come negli ultimi fondi stanziati per ferrovie, una parte rilevante riguarda ormai, come è giusto peraltro, il ferro regionale. Sull'altra questione invece, che è quella dei controlli dell'Agenzia Nazionale, noi abbiamo già predisposto un decreto, non ha ancora percorso tutta la sua strada, lo sta esaminando ancora, se non ricordo male, salvo errore, da febbraio, la conferenza delle regioni, e il decreto prevede in tendenza appunto la costruzione di un sistema unico che riguarda naturalmente anche la sicurezza. Quindi possiamo sperare, Vice Ministro Nencini, che non succederanno più queste cose, e in che tempi? Per esempio, c'è un'ascoltatrice, Paola, da Firenze, dice: la responsabilità del disastro ferroviario del governatore della Puglia, che pur avendo i soldi per i lavori di raddoppio della tratta dal 2007, ma sono cambiati poi tra l'altro i governatori, non li ha mai usati per fare i lavori. È vero che c'è anche questo problema? Che ci sono dei fondi, tratta, per esempio, europei? Sì, assolutamente sì. Sono in disponibilità, se non ricordo male, dal 2012, non dal 2007. La gara è già stata bandita e proprio andrà a esaurimento da oggi a una settimana. Prevede il raddoppio. Ho letto molte cose sul ritardo. Molti hanno scritto di ragioni di natura burocratica. La gara non dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dipende appunto dalla Regione Puglia. Ho raccolto un po' di informazione, forse lì conviene indagare meglio, forse c'è stato qualche ritardo negli espropri dei terreni, perché dovendo realizzare un altro binario bisogna espropriare nuovo terreno e ogni nuovo terreno da espropriare naturalmente a dei proprietari. Va visto se i comuni hanno fatto per intero e in che tempi hanno fatto per intero il loro dovere amministrativo. Anche questo sì, va appurato. Ho letto, come ha fatto lei, lo ricordava, che la Procura di Trani ha aperto un fascicolo anche per quello che riguarda appunto l'utilizzo di questi fondi per il raddoppio. Per chiudere, Nencini, come ricordava qualche ascoltatore, ci può essere l'assenza di un obbligo di legge di utilizzare appunto dei sistemi di controllo a norma, però questo non esime dal dover garantire comunque la sicurezza. Quindi, al di là appunto della questione del raddoppio, che poi si vedrà se ci sono state delle mancanze, delle responsabilità, eccetera, però ci si può assicurare che questo sistema del blocco telefonico, di telefonarsi, allora uno può partire, parti tu, no, parto io, cambierà in tempi brevi? È uno dei propositi che si pone il decreto che prima le ricordavo, che è quello che porta appunto ad un ente unico per la sicurezza nazionale. Accanto a questo però, con Ferrovie, lo ricordava oggi il presidente Mazzoncini, anche la tendenza a creare una rete unica nazionale è prevista. Sa cosa servono? Nuovi grandi investimenti. Le dico soltanto un numero. Il Ministero sta lavorando con la Regione Umbria per acquisire la rete ferroviaria Umbra. Sono 150 chilometri circa di rete ferroviaria. Per portarla a regime servono 100 milioni. Quindi più investimenti ci sono, più fondi ci sono, più è facile raggiungere l'obiettivo che anche noi ci siamo posti. Tenendo conto di un fattore: il blocco telefonico è un sistema arcaico. Già. La norma però ancora oggi lo prevede. E speriamo che sia in brevissimi tempi superata. Grazie Vice Ministro Nencini. Prego, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. E adesso, prima di lasciarci brevemente per uno spazio di creazione, ancora i vostri messaggi. Purtroppo, dice un ascoltatore, ascoltatrice, purtroppo oggi c'è davvero paura di come oggi le persone lavorino male, senza professionalità, fregandosene di cosa potrebbe accadere. Per questo modo di lavorare scandaloso bisognerebbe metterlo sul contratto e queste persone devono pagare invece sempre colpa dello Stato. E qui però appunto aspettiamo di vedere quali saranno le conclusioni delle indagini. Clotilde invece si esprime sulla questione del dibattito sul velo, velo sì, velo no, lo si deve vietare o no, Corte Europea deve decidere. Parliamo di velo, non di burca, perché se parliamo di velo mi chiedo perché il velo delle suore, dice Clotilde, non venga mai messo in discussione. Un filino di razzismo, dice. Allora, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero 349 238 6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuate a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp e gli SMS. Sui vari temi, dal disastro ferroviario di cui abbiamo appena parlato a per esempio ritornare sulla questione del velo, l'avevo visto un altro messaggio, anzi c'è qualcuno che dice: si riattiva il metodo Italia, sempre sul disastro ferroviario. Per l'incidente ferroviario, scusate, c'è già aria di depistaggio, perché naturalmente ogni volta che succede una cosa del genere c'è sempre paura che non si arrivi alla verità e ai responsabili. E anche oggi ci sono stati alcuni parenti, insomma, c'era per esempio una ragazza che piangeva il padre morto in questo incidente, che dice: noi abbiamo diritto alla verità ma abbiamo paura dei poteri forti, no? Aleggia un po' questo fantasma sempre di depistaggi in Italia, ci auguriamo naturalmente di no. E poi invece Stefano da Bergamo scrive: spero che al Provenzano non facciano cerimonia religiosa, anche se di nascosto, magari per soldi, dice Stefano. Per ora è stata vietata la cerimonia religiosa. Ne parleremo tra pochissimo di Provenzano. Voi continuate la pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 con i vostri messaggi. Mentre intanto, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo le notizie più importanti. Il disastro ferroviario in Puglia, sono 23 i morti accertati, sabato ci dovrebbero essere i funerali, domani il presidente Mattarella sarà a Bari per rendere omaggio alle vittime, ci sono i primi nomi nel registro degli indagati della procura di Trani, si tratterebbe di dipendenti di Ferrotranviaria. Gran Bretagna, Theresa May è la nuova premier, riceve dalla regina Elisabetta l'incarico di formare il nuovo governo, a lei il delicato compito di portare il paese fuori dall'Unione Europea. È morto Bernardo Provenzano, ne parleremo tra pochissimo. Immigrazione, l'Unione Europea propone 10.000 euro per ogni reinsediamento di migranti e un sistema unico d'asilo. Stati Uniti, secondo gli ultimi sondaggi, si restringe a 3 punti di margine il vantaggio a livello nazionale della candidata democratica alla Casa Bianca Hillary Clinton sul rivale Trump. Le Olimpiadi di Rio, parla il marciatore alto atletino Fazer: non mi sono dopato, qualcuno ha manipolato la provetta, voglio giustizia. Sentite le urla di rabbia e anche di contentezza, di soddisfazione nel momento in cui fu arrestato 10 anni fa Bernardo Provenzano, il capo dei capi di Cosa Nostra, il boss dei boss, come è stato definito. È morto oggi all'ospedale San Paolo di Milano, il corleonese capo di Cosa Nostra, che aveva 83 anni ed era in carcere da 10 anni in regime di 41 bis, il carcere duro. Era stato arrestato 10 anni fa, pensate, dopo 43 anni di latitanza, e fu arrestato in una masseria a Corleone, a poca distanza in realtà dalla casa dei suoi familiari. E sebbene un altro grosso esponente di Cosa Nostra l'avesse definito, Luciano Liggio, uno che sparava come un dio pur avendo un cervello di gallina, bisogna dire che nelle mani di Provenzano Cosa Nostra ha cambiato pelle, ha avuto una certa evoluzione, possiamo dire, insomma, relegando la parte più della forza militare, del piombo, in secondo piano e incarnando un po' più un'anima dialogante, nel senso di convenienza, quindi con vantaggio di rapporti di collaborazione con professionisti insospettabili, anche con alcuni settori della politica. E a tracciarne il profilo e anche questa straordinaria carriera, naturalmente malavitosa, voglio coinvolgere Attilio Bolzoni, che saluto. Buonasera Attilio. Buonasera a voi, buonasera a voi. Giornalista di Repubblica, che si occupa da tanti anni principalmente di mafia, è stato tra i sceneggiatori della fiction TV Paolo Borsellino e il capo dei capi, ed è tra i tanti libri ha scritto proprio con Giuseppe D'Avanzo il capo dei capi. Attilio, quindi se dovessi fare proprio una fotografia di questo personaggio. La fotografia, intanto, che il dialogo, questo Bernardo Provenzano l'ha cercato dopo le stragi del 92, perché fino alle stragi del 92 lui ha partecipato insieme a Rina e al gruppo corleonese a tutte le stragi, quindi è diventato buono tra virgolette dopo l'inabissamento, perché fino alle stragi del 92 era dentro il progetto stragista. Questa è una mafia che non c'è più, secondo me. La mafia di Corleone è una mafia scomparsa, è un'anomalia nella storia secolare della mafia. La mafia che si rivela con le armi, con le stragi, con i delitti eccellenti, è una mafia anomala. La mafia che c'era prima e la mafia che c'è oggi è la mafia che si nasconde, che bisogna cercare per trovarla, e questa è la vera mafia. Quella è un'anomalia che hanno fatto in Sicilia questi corleonesi, hanno fatto il lavoro sporco. Il lavoro sporco significa delitti eccellenti, delitti politici, Mattarella, La Torre, Riina, il generale Dalla Chiesa, ufficiali dei carabinieri, commissari di polizia, giornalisti, sacerdoti, imprenditori, e con l'atto finale del 92 sono stati acchiappati uno dopo l'altro e marciscono tutti nei bracci del 41 bis. Ed è molto frettolosa l'ipotesi che vuole quel Matteo Messina Denaro come successore di loro. Matteo Messina Denaro non diventerà mai il capo di Cosa Nostra per due ragioni: primo, perché non è palermitano, è trapanese, e secondo, perché è bruciato. Senti, Attilio, lui era famoso anche per questi, al di là di quello che lui ha raffigurato e incarnato, no? Come boss dei boss, per questi celebri pizzini codificati in una lingua approssimativa che quale mandava gli ordini, le indicazioni sul da farsi, no? E come è stato possibile effettivamente che sia rimasto per tanti anni latitante ma a poca distanza dalla casa dei suoi familiari? C'erano delle coperture importanti oppure... È perché è stato protetto. Un uomo che rimane 43 anni latitante non è un latitante, ha un altro status. È stato protetto a tutti i livelli. Quando lo Stato italiano, 8 anni prima del 2006, l'ha voluto cercare con un po' di fortuna, in 8 anni è stato trovato e preso. C'è un dettaglio che pochi sanno della cattura di Provenzano: quando il dottor Renato Cortese, cioè il capo della squadra che ha catturato Provenzano, ha individuato l'ultimo uomo, un tale Rina, un omonimo, che portava il sacco di immondizia con i panni, la biancheria di ricambio, ha visto una manina nel casolare di Montagna dei Cavalli ed era sicuro al 100% che là dentro ci fosse Provenzano, ha chiesto al magistrato che coordinava le indagini, che era il sostituto procuratore Prestipino a Palermo, oggi procuratore aggiunto a Roma, ha chiesto di mettere sotto intercettazione telefonica l'ultimo anello che poteva portare a Provenzano. Il procuratore Prestipino ha avuto un colpo di genio: non ha fatto mettere il telefono sotto controllo, ha invitato il commissario di polizia Cortese a fare un'osservazione con binocoli e telescopi, e guarda caso la prima volta che un numero di telefono non è finito alla società telefonica per essere sotto controllo, non è scappato ma è stato preso. È una piccola coincidenza. Già, Attilio Bolzoni, ci dobbiamo lasciare, però la cosa mi ricordo che ha meravigliato è che lui vivesse proprio con poco, no? Si immaginava il boss dei boss, trallusso, chissà cosa si permetteva, invece diciamo era lì che mangiava anche povere cose. Cioè la domanda aveva di tutto: ricotta e cicoria, aveva anche 19 maglioni di cashmere del negozio più elegante di Palermo, aveva crocifissi e santini e anche una videocassetta dei Puffi, i misteri del covo di Provenzano. Questi misteri, grazie a Attilio Bolzoni. Prego. Ricordiamo, autore del Capo dei Capi. Ciao Attilio, buona serata e viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi con voi, notizie che vi ricordo molto velocemente. Tra le principali, naturalmente, il disastro ferroviario con il bilancio più o meno definitivo, dovrebbe essere di 23 morti accertati. Sabato ci saranno probabilmente i funerali, domani il Presidente della Repubblica Mattarella renderà omaggio a Bari alle vittime, ci sono i primi nomi nel registro dei indagati da parte della Procura di Trani. Gran Bretagna, Theresa May, la nuova Premier, riceve dalla Regina Elisabetta l'incarico di formare il nuovo governo, ne parleremo tra poco. Abbiamo appena parlato della morte di Bernardo Provenzano, il capo dei capi di Cosa Nostra, se n'è andato a 83 anni, era in carcere da 10 anni dopo 43 anni di latitanza. Europa 24 notte. È atteso per domani il verdetto della Corte di Giustizia Europea sulle concessioni balneari. È attesa per il 14 luglio la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla proroga delle concessioni balneari in Italia. L'avvocato generale, nelle sue conclusioni rese il 25 febbraio, aveva ritenuto che la legislazione italiana fosse contraria alle norme europee e della direttiva dei servizi, nota come Bolkestein. Queste non sono vincolanti, ma generalmente sono riprese nella sentenza successivamente emessa dalla Corte. La causa è stata avviata davanti ai giudici di Lussemburgo lo scorso 3 dicembre su iniziativa del TAR della Lombardia, in merito alle cause aperte da stabilimenti balneari sul lago di Garda. Ma al di là della proroga, una soluzione definitiva ci sarebbe, secondo Riccardo Borgo, presidente SIB, sindacato italiano balneari, una norma conforme al diritto europeo, visti anche gli esempi di paesi membri. È così? Ci dovrà essere, perché ovviamente un comparto così importante come quello costituito da 30.000 imprese balneari non può continuare a vivere nell'incertezza e nelle proroghe, che pur se abbastanza lunga sino all'ipotesi del 2020, comunque rimane un tempo limitato. mercato sul quale non si può fare economia, non si può fare sviluppo, non si può sostanzialmente fare impresa. In questi giorni si sta preparando un provvedimento di delega al governo con l'obbligo entro 12 mesi di varare la riforma complessiva del demanio marittimo. Quali sono i contenuti? Quali sono i punti? I punti direi che i più importanti sono quelli. Intanto ovviamente di stabilire un principio che le concessioni demaniali devono essere assegnate a evidenza pubblica. Questo è il principio generale. Occorre trovare una mediazione tra nuove concessioni e le concessioni esistenti. Qui il discorso che noi abbiamo chiamato del doppio binario, cioè subito per le nuove una evidenza pubblica, un periodo transitorio, noi abbiamo chiesto di 30 anni, il Parlamento scriverà, penso, adeguato, poi lascerà al governo il compito di dare sostanza a che cosa vuol dire adeguato. Ci dovrà essere, ci sarà, mi risulta, il riconoscimento comunque del valore commerciale delle imprese, perché noi è vero che il demanio è pubblico, ma le imprese sono le nostre, le abbiamo costruite noi, le abbiamo sviluppate noi. Dovrà essere riconosciuta comunque l'esperienza di chi gestisce queste imprese, perché se è vero, come noi riteniamo sia, che questo, le aree demaniali siano un bene prezioso dello Stato, riteniamo che debba essere anche assegnato a chi ha un riconoscimento di esperienza, di capacità di gestione, perché se l'obiettivo è quello del miglior utilizzo, credo che noi comunque abbiamo dimostrato in questi anni di saperlo fare. Questo nodo che rimane sospeso riguarda moltissime aziende, spiagge insomma, in Italia che stanno attendendo una soluzione da anni. Il comparto, quante persone e quante aziende conta? Il comparto conta circa 30.000 imprese, 30.000 concessioni demaniali che non sono tutti stabilimenti balneari, perché all'interno delle concessioni demaniali ci sono campeggi, discoteche, bar, alberghi, ristoranti, perciò voglio dire tutta un'economia turistica è valutata attorno ai 30.000 aziende. Gli addetti diretti, noi, i nostri familiari che lavorano nelle aziende, sono circa 100.000. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Nothing is really impossible if you put your mind to it. After all, as I once said, I was the future once. Quanto è spiritoso Cameron, David Cameron, il premier uscente, dicendo: una volta io ero il futuro, adesso non se ne va, perché il presente della Gran Bretagna è Theresa May. Da oggi, 60 anni a ottobre, diventa la prima ministra della Gran Bretagna e la seconda donna nella storia del paese ad assumere la guida dell'esecutivo, 26 anni dopo Margaret Thatcher, anche lei esponente dei Tories. Ha in comune con la Lady di Ferro il metallo, per l'appunto la personalità di ferro, ma è una conservatrice piuttosto diversa, dichiarata orgogliosamente femminista, favorevole matrimoni gay. Che altro? Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. La Theresa May è sicuramente diversa e si trova un'Inghilterra completamente diversa. Già. Margaret Thatcher, quando ha iniziato da primo ministro, batteva i pugni perché voleva fare gli interessi della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, mentre la Theresa May adesso deve preparare appunto l'uscita dall'Unione Europea. E sarà un compito ben complicato, no? Lei ha detto che però vuole cercare di combattere le disuguaglianze, di pensare anche ai poveri, non solo a quelli che hanno privilegi, che vuole una Gran Bretagna unita, che può essere un successo questa uscita, forse per forza, no? Deve dire così in questo momento delicato. Beh, questo è inevitabile, nel senso che non può dire altrimenti. Lei ha fatto una tiepidissima campagna per il Remain, però se è vero, come sembra appunto, che ministro degli esteri sarà Boris Johnson, questa è la prova del fatto che all'interno del partito conservatore si è consumata proprio una resa dei conti, e quindi adesso tutte le pedine vanno riaggiustate e molti di quelli che hanno sostenuto il Brexit adesso saranno anche in ministeri importanti. Ma la partita inizia soltanto adesso, anche perché non bisogna fare il conto senza l'oste. La Theresa May può dire quel che vuole, però dall'altra parte dovrà poi negoziare con Bruxelles, e bisognerà vedere cosa Bruxelles vorrà concedere, ovviamente potrà concedere alla Gran Bretagna. E questo si vedrà nei mesi prossimi, se non addirittura negli anni prossimi, perché si parla del 2017, addirittura vedevo 2019, Antonio Villafranca, quindi avremo tempo di risentirci su questo. Grazie intanto, buon lavoro a Theresa May, grazie ad Antonio Villafranca dell'ISPI. Direi che sì, qui ci dobbiamo lasciare, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.